Europa 24. Buona giornata anche da Anna Migliorati, la nostra finestra sull'Europa, Europa che apre la settimana dovendo però fare i conti con lo schiaffo arrivato dalla periferia, dall'Islanda, che col voto del fine settimana ha visto la netta vincitrice l'opposizione del centrodestra euroscettica e punita invece la coalizione di centrosinistra, le cui ricette economiche ispirate all'austerità e al rigore di Bruxelles, che hanno permesso però all'isola di uscire dalla recessione, non sono piaciute agli elettori. Nel paese la maggioranza è convinta che il Parlamento di Reykjavik debba continuare a mantenere il controllo totale sulle sue politiche, in particolare quelle legate alla pesca, piuttosto che negoziare con Bruxelles e con paesi come il Regno Unito e la Spagna, che hanno interesse ad abbassare le quote islandesi. Commissione europea che intanto, dopo aver lanciato la scorsa settimana la lotta comune all'evasione fiscale, oggi pubblica un rapporto sulla tassazione nei diversi paesi. Ebbene, sono i belgi gli europei che in questo 2013 dovranno lavorare più a lungo per pagare le tasse, ma l'Italia non è da meno, piazzandosi al secondo posto. Andiamo a Bruxelles da Antonio Pollio Salimbeni. Le tasse sul lavoro restano la maggiore fonte delle entrate fiscali nell'Unione Europea e nell'Eurozona. Negli ultimi anni, dati di Eurostat pubblicati oggi, che erano nel 2011, indicano che complessivamente il tasso dell'imposizione fiscale in rapporto al prodotto lordo, sia nella Unione Europea 27 sia nell'Eurozona, è aumentato. Per quanto riguarda l'Italia, il nostro paese si trova al secondo posto nella lista dei paesi europei con tassazione più elevata sul lavoro, 42,3%, seconda dopo il Belgio, 42,8%, e all'Italia segue l'Austria, 40,8%. Cambiamenti climatici alle porte, ma l'Europa è ancora indietro nell'affrontare l'emergenza clima, e quanto emerge dal primo rapporto adattamento in Europa pubblicato oggi dall'Agenzia Europea dell'Ambiente in concomitanza con il lancio della strategia della Commissione Europea. Chiederemo, dice Jacqueline McGlade, direttore esecutivo dell'AEA, agli europei di imparare gli uni dagli altri e investire in trasformazione a lungo termine. Un progetto apripista è quello del ripristino del bacino naturale del Danubio, con un costo stimato di 183 milioni di euro, che aiuterà però a prevenire i gravi danni provocati dalle inondazioni. In Italia, caso scuola è considerato il sistema di allarme precoce sul fronte sicurezza messo in piedi dall'Emilia Romagna. E altre novità in arrivo per tutti. In autunno comparirà un triangolo nero su 105 farmaci. Sono i sorvegliati speciali in Europa. Sì, buongiorno. Le trattative su ministri e programma sono ancora in corso, ma Silvio Berlusconi oggi si è mostrato ottimista sulla nascita del nuovo governo. Le cose allora, il servizio bene. Ovviamente non è da questo, farmaci sorvegliati speciali in Europa, vediamo se riusciamo a recuperarlo, altrimenti la consueta pillola che ci aspetta con il nostro Federico Taddia. Sì, buongiorno. Le trattative. Allora, ancora problemi tecnici, Federico Taddia con la pillola sull'Erasmus. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio segnalare un importante progetto promosso e finanziato dalla Commissione Europea e finalizzato allo scambio di nozioni e professionalità tra le generazioni, l'Erasmus per giovani imprenditori. Il programma di mobilità transfrontaliera ha infatti lo scopo di aiutare gli aspiranti imprenditori europei e quelli che stanno muovendo i primi passi ad acquisire le competenze necessarie per avviare e gestire un'attività, attraverso un periodo della durata da 1 a 6 mesi da trascorrere all'interno di una realtà aziendale affermata collocata in una delle 27 nazioni dell'Unione. I requisiti e i moduli di richiesta per partecipare al programma si trovano sul sito www.erasmus-entrepreneurs.eu e allo stesso sito si possono rivolgere anche gli imprenditori interessati a mettersi in gioco ospitando uno o più giovani. Europa che vi aspetta alle 15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.